Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buona domenica a tutti, anche da parte di Giorgio Di Luca in redazione, Pietro Accorti in regia. Oggi eccezionalmente insieme un'ora soltanto, anzi meno visto che sono già le 17:12. Non ho soltanto rispetto alle abitudini domenicali, che naturalmente riprenderanno in epoca di mondiali, programmazione che rimane invariata per la domenica 17-19, rimane l'orario 17-18 per il sabato, tutti i giorni invece da domani con Gigi Garanzini dalle 14 alle 15 a Tempo di Sport, speciale mondiale naturalmente, e a partire da venerdì con il sottoscritto ogni giorno dalle 21 alle 22:30 per viverli insieme questi mondiali. Intanto Lippi ha appena alzato la bandiera della spedizione azzurra, ha detto: ho visto la sua finale in TV ieri da Ginevra, tutta, dal primo punto fino al trionfo, d'ora in poi sarà il nostro simbolo. 4 anni fa dissi che ci saremmo ispirati all'oro olimpico del Sette Rosa, oggi a entusiasmarci alla Schiavone. Lo leggo come simbolo per l'Italia, grinta, passione, classe e cuore, d'ora in avanti è lei l'immagine del nostro mondiale. Intanto si parte martedì sera, però con un sacco di dubbi e due presunti titolari, come sappiamo bene, zoppicano. Ma conviene portarli? È un interrogativo che giro subito a Luca Curino, inviato della Gazzetta dello Sport, che ringrazio. Ciao Luca. Buongiorno, ciao a tutti. Sì, conviene sicuramente perché Pirlo e Camoranesi sono forse gli unici due centrocampisti che hanno le loro corde del fatto di saltare l'uomo. E quindi è giusto tentare fino all'ultimo di recuperarli. La deadline è il 13, 24 ore prima della partita dell'esordio col Paraguay, la FIFA permette di fronte a un infortunio comprovato di sostituire uno nella lista dei 23, uno più nella lista dei 23, e quindi è questa la ragione per cui partiranno sia Pirlo che Camoranesi. Camoranesi con buone se non ottime speranze di restare nel gruppo, visto che le notizie sul suo ginocchio sono abbastanza buone, lui sta riprendendo e dovrebbe già cominciare ad allenarsi quando arrivano in Sudafrica. Per Pirlo la vedo molto molto dura, è un po' un viaggio della speranza questo di Pirlo, perché per l'infortunio che ha avuto 3 settimane sono il minimo. Sì, ce lo diceva anche ieri il dottor Volpi, 3 settimane sono il minimo e dunque resta un dubbio molto pesante e molto forte. Tra l'altro Luca Curino ha seguito sulle pagine della Gazzetta dello Sport questa vicenda sia sul fronte Pirlo che sul fronte Montolivo, che è il probabile sostituto, almeno in campo, possibile sostituto di Andrea Pirlo. Ne parliamo tra un attimo, subito dopo il traffico. Allora Luca Curino, aspettando Pirlo io sono pronto, è il titolo del tuo servizio da Ginevra sulla Gazzetta di oggi, lo dice Riccardo Montolivo, può essere lui l'uomo che sostituirà Andrea Pirlo? In tutt'altro assetto tattico, certo. Può essere, Montolivo non è Pirlo, non fa il lavoro di Pirlo, però è chiaro che senza Pirlo il CT sarà costretto a cambiare il modulo provato finora, che è un 2-3-1, un 4-2-3-1, e in un nuovo modulo presumibilmente un 4-4-2 o un 4-3-3, e Montolivo ci sta bene, ma non con le funzioni di Pirlo, perché è un altro tipo di giocatore. Certo. Altro dubbio forte è emerso nella partita col Messico è stato quello della tenuta fisica. Ora questo 1-1 con la Svizzera, noi siamo il popolo della cabala, dei cornetti porta fortuna, degli scongiuri eccetera eccetera, piace da morire, no? Per i ben noti precedenti. Però al di là di questo, sul campo cosa ha detto la partita con la Svizzera? Le gambe stanno arrivando o no? Allora, c'è stata la differenza col Messico, era talmente netta che non poteva essere la vera Italia, e quello, sì, certo. Di quello ci si è resi conto tutti, non esiste questa differenza fra Messico e Italia. La Svizzera correva molto meno del Messico, allora si tratta di tarare le due cose, cioè se da un lato il Messico c'era superiore sul piano fisico, dall'altro la Svizzera è sembrata forse anche un po' più indietro di noi, quindi insomma bisogna rapportare tutto alle condizioni degli avversari. Sicuramente contro la Svizzera l'Italia ha fatto una figura migliore, ha giocato anche bene nel secondo tempo, va detto però che era l'Italia 2, era, sì, l'Italia delle presunte riserve, in quella squadra c'erano soltanto Chiellini, Zambrotta e presumibilmente Pazzini, che potrebbero aspirare a un posto da titolare, sì, oltre a Montolivo, per quello che dicevamo prima. E quindi insomma vanno un po' prese col beneficio di inventario, sia l'una in un senso che l'altra nell'altro. Sì, altro punto, l'Ipi ha respinto questa definizione di Italia 2, però a preoccupare è la non grande chiarezza di idee in questo momento. L'Ipi è vero è abituato, Luca, a gestire le sue squadre un po' come un allenatore di basket, cambi tattici a partite in corso, una rosa larga da tenere sempre coinvolta, però i recenti esperimenti non lasciano esattamente tranquilli sulle idee del CT. Guarda, detto che la miglior qualità di Lippi è la lettura della partita a partire in corso, lui sì, è sempre stato abilissimo a vedere le cose e a correggere a seconda di quanto si accorgeva durante la partita, ci ha colpito un po' tutti negativamente, va detto, il fatto che dopo aver provato per 10 giorni Marchisio praticamente trequartista, che poteva anche essere una buona idea, dopo 20 minuti lui stesso l'ha rinnegata dopo 20 minuti col Messico. E allora questo, per carità, va benissimo, però è un segnale di insicurezza che rischia di trasmettersi alla squadra. Infatti poi l'indomani a Quinta ha ammesso che un po' di confusione quel cambio in corsa l'ha creato nel gruppo. Sì, altro dubbio, tanti giocatori fuori ruolo, anche questo è un po' un interismo, se mi consenti. Cosso a destra, Iaquinta a sinistra, Chiellini forse terzino. La premessa è che è vietato protestare, questo lo sappiamo, no? Sì. Ci sono le dichiarazioni un po' imbarazzate dell'altro giorno di Iaquinta. Sì, Vincenzo è stato onesto, ma anche molto disciplinato, nel senso che lui ha detto: non è il mio ruolo, non ho le gambe per fare le due fasi, cioè quella d'attacco e quella difensiva, ma lui ci chiede questo e noi dobbiamo farlo, quindi molto, molto soldatino in questo senso. A proposito di Chiellini, io credo che Chiellini non potrà fare a meno che schierarlo in mezzo, perché è indispensabile, si è visto anche ieri, ha risolto due o tre situazioni scabrose. Zambrotta, quando si parla della fase offensiva, va molto bene, un po' meno bene quando viene puntato. E poi c'è questo dilemma di Marchisio, perché la posizione di Marchisio, adesso certo c'è l'infortunio di Pirlo che rimette tutto in discussione, però la posizione di Marchisio finora era stata o trequartista o esterno sinistro, dove secondo me esterno sinistro perde moltissimo, trequartista potrebbe essere anche una buona soluzione, ma ci vorrebbe un po' più di tempo per lavorarci. Luca, per chiudere, c'è questa, partiamo con questa micro polemica molto pelosa secondo me su Marchisio, questo video su YouTube, secondo il quale dalla lettura del labiale avrebbe detto che cantando l'inno schiava di Roma ladrona, avrebbe aggiunto Marchisio, si è innescata subito la polemica che fa il paio le dichiarazioni di Calderoli di prima, insomma c'è anche troppa politica che sta accompagnando l'Italia in Sudafrica. Può lasciare qualche traccia questa cosa qui? Secondo te, detto che io questo video l'ho visto diverse volte, questo labiale io forse non ho la sensibilità per coglierlo. Colgo però sicuramente che dice una parola in più, perché mentre gli altri hanno la bocca chiusa, lui dice ancora una parola, quale non saprei dire. E colgo soprattutto la reazione dei due compagni, uno è Cannavaro, che gli stanno accanto, che si girano stupiti e lui fa un ghigno. Quindi una parola la dice, quale francamente la mano sul fuoco non so mettercela. Detto questo, la polemica comincia dal figlio di Bossi, quando dice che non avrebbe tifato per l'Italia, e questo ha disturbato diversi azzurri oltre allo stesso CT, che ne ha fatto subito riferimento alla conferenza, prima conferenza di ritiro, ha detto: so che se avremo tifo contro per questioni di antipatie, per questioni politiche. Sì, non è bello accompagnare una missione in questo modo, e se fosse vero che uno dei protagonisti si è espresso in quel modo durante l'inno, detto che io personalmente non trovo l'inno questa cosa così sacra, se fosse vero evidentemente serpeggia anche un po' di polemica inconscia o meno dentro lo stesso gruppo, ecco. Sì, hai ragione, grazie Luca, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero Luca Curino, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Se è vero questo, se è vero che Marchisio ha aggiunto questa ladrona, semplicemente ha fatto una stupidaggine, perché non è il caso di aggiungere ulteriori questioni di questo tipo molto pelose, torno a ripetere, prima di partire per una spedizione che non sarà facile e nella quale si cercano, anche leggendo le dichiarazioni di Calderoli di oggi e la pronta replica di La Russa, si cercano come al solito mille risvolti che col calcio non c'entrano nulla, anche a costo di fare, come ha fatto secondo me Calderoli oggi, della demagogia a basso costo, insomma. 800 24 00 24, il numero verde per partecipare al nostro programma. Ripeto, staremo insieme oggi fino alle 18, ma poi torneremo dalla prossima domenica con la programmazione completa, 17-19. Cosa ha detto Calderoli? L'abbiamo detto prima nel GR, lo ripetiamo. È giusto che anche il mondo del calcio partecipi ai sacrifici degli italiani di fronte alla crisi in vista dei mondiali. Faccio appello alla Federcalcio affinché gli eventuali premi che spetteranno ai calciatori vengano ridimensionati rispetto alla crisi. Anzi, sarebbe un bel gesto se calciatori e Federcalcio ne devolvessero parte a titolo onorifico. Poi vediamo se sarà il caso anche di assegnare dei premi. Lo speriamo tutti, naturalmente. Quanto al resto lascio a voi i commenti, se ne avete voglia. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Intanto Nadal sta per sedersi sul trono di Parigi accanto a Francesca Schiavone. 2-7-0 su Söderling, conduce 4-3 nel terzo set e ha già un break di vantaggio. Adesso facciamo un salto in Sudafrica per salutare anche la spedizione del nostro inviato Dario Ricci. Ciao Dario. Buonasera Carlo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Cosa hai fatto oggi? Ah, in realtà mi sto godendo la partitella dell'Argentina, so che ti faccio un regalo gradito, visto anche la tua attenzione per l'Albi Celeste. Ebbene, dopo tanti giorni di ritiro di clausura, Maradona ha riaperto il ritiro al pubblico, quindi falsi tutti esauriti qua per questo allenamento qui sul campo del centro di alta formazione sportiva dell'Università di Pretoria, un clima bellissimo, finora gol di Messi, Milito, Pastore, quindi insomma un allenamento nel segno dell'Italia ma anche nel segno di Verona, che gran signore del centrocampo, che adesso sta tentando un assist, va. Ti faccio qualche istante di telecronaca. Heinze però blocca e libera la difesa, e il tutto condito da un entusiasmo indescrivibile. Ci saranno almeno 5.000 persone sugli spalti, vuvuzela. Veramente il mondiale è già iniziato qua, almeno Carlo. Dario, hai anche dato un'occhiata al luogo nel quale mercoledì mattina, se non ricordo male, arriverà l'Italia o no? Sì, arriveranno, gli azzurri arriveranno a Johannesburg alle 9, poi nel pomeriggio alle 15.30 è programmato il primo allenamento al Southdown College di Irin, nella zona tra praticamente a 16 km da Pretoria, tra Johannesburg e Pretoria. Oggi sono andato a fare un giro di ricognizione, direi procedono i lavori per sistemare le ultime cose, per sistemare Casa Azzurri, che sarà a poca distanza da lì, a 4-5 km di distanza. C'è soprattutto attesa perché oggi c'erano solo gli operai, però insomma speriamo anche che al Southdown College si possa rivedersi uno spettacolo di tifo come stiamo vedendo questo pomeriggio qui a Pretoria, Carlo. Dario, per chiudere, torniamo in cronaca, come si comporta Maradona? Tranquillo o agitato? Ma lo vedo molto tranquillo, sta qui a una cinquantina di metri da dove mi trovo, ha diretto tutto sommato in modo rilassato la prima parte dell'allenamento, poi a un certo punto si è sentito il fischio e è uscito fuori il pallone, è uscito fuori anche un sorrisone sul volto di Diego, perché è chiaramente la parte che tutti gli argentini preferiscono dell'allenamento, e poi inizia la partitella, chiaramente a ritmi certo non sostenuti, perché se un vantaggio già ce l'ha questa Argentina è quella di avere almeno tutti i grandi protagonisti in salute, e certo Diego non vuole sprecare questo vantaggio a pochi giorni dal via del mondiale. Grazie Dario, buon lavoro. Ci sentiamo naturalmente. Grazie a voi. Grazie Dario Ricci, ci sentiamo naturalmente nei prossimi giorni per tutto il mondiale con Dario Ricci, che tornerà ovviamente nelle prossime puntate di A Tempo di Sport, negli speciali che avremo, ripeto, ogni sera a partire da venerdì, ogni sera infrasettimanale, quindi dal lunedì al venerdì primo giorno dei mondiali e primo giorno anche per il nostro speciale dalle 21 alle 22.30, con un sacco di ospiti e di sorprese, anche magari per riderci un po' sopra questi mondiali che rischiano di diventare anche complici dichiarazioni politiche un po' troppo serie e angoscianti. Intanto Nadal 5-3 nel terzo set e tra poco verrà incoronato re di Parigi. Poi parleremo nella seconda parte del nostro programma anche di questa corsa che Valentino Rossi ha visto dalla sua stanza di ospedale, vinta da Pedrosa oggi pomeriggio al Mugello. Ci fermiamo un attimo, subito dopo però torniamo su argomenti calcistici, perché io sono curioso anche di dare un'occhiata. Dario ci ha parlato un po' dell'Argentina, però sono curioso di dare un'occhiata anche in casa delle altre grandi di questo mondiale. Mi sembra un mondiale che perde un po' i pezzi, no? I pezzi pregiati, da Drogba a Ferdinand, al probabile o possibile forfait di Robben. Insomma, noi abbiamo i nostri problemi, ma anche gli altri non stanno meglio, mi pare. Volto tuffato in un asciugamano, le lacrime nascoste alle telecamere sono quelle di Rafa Nadal, estremamente umane nel festeggiare il suo successo concretizzatosi un minuto fa al Roland Garros, partita senza storia questa finale con Söderling 6-4, 6-2, 6-4. Per Rafa Nadal che adesso festeggerà dopo il tuffo sulla terra rossa e dopo appunto queste lacrime, e questa sera danzerà con la regina di Parigi, la nostra Francesca Schiavone. Nicola da Prato, buongiorno, primo ascoltatore di oggi, buongiorno. Volevo farvi complimenti per la vostra trasmissione e volevo dire una cosa. Finalmente anche la RAI si è svegliata in materia di diritti televisivi, che ieri, facendo vedere la finale, anche se l'abbonamento a Sky, ha fatto una cosa veramente che non veniva da tempo. Quindi vuol dire che quando c'è i manici intelligenti si riesce ad avere dei buoni servizi. Sì. Basta vedere come è fatto il motomodale Serie 1 con servizi pre-gara, post-gara, cosa che la RAI non riesce a fare per la Formula 1, non faceva Sky l'anno scorso, che per esempio dava anche le prove libere. Sì. La solita mentalità provinciale di quando ci si viene in soccorso un presidente, ci si adegua a tutto. Qui entriamo nel campo dei diritti televisivi, no? Un campo molto, molto ampio e complesso, e delle scelte editoriali. Certamente è stato opportuno ieri da parte della RAI trasmettere la finale di Francesca Schiavone, che era evento nazionale, alcuni ascoltatori l'hanno sottolineato ieri pomeriggio, e dunque tant'è, però insomma non mi addentrerei nel bosco dei diritti televisivi relativi allo sport, perché rischieremo di aprire un capitolo assai ampio, che forse oggi, data anche la brevità della nostra trasmissione, come detto oggi eccezionalmente soltanto un'ora, non mi sembra il caso, non mi sembra un capitolo da aprire. Grazie Nicola. Gianfranco da Torino, buongiorno. Buongiorno. Senta, signor Genta, io mi riferisco al suo giudizio che ha dato sulla dichiarazione di Calderoli. Sì. E dico questo: se i sacrifici li devono fare tutti in Italia e sono stati colpiti i pensionati, i lavoratori, gli infermieri, i tramvieri, i malati, i sani, tutto quanto. Non vedo perché lei non sia d'accordo che anche i calciatori miliardari contribuiscono a questo. No, chiariamoci, io non è che non sono d'accordo. Io però voglio domandare, Calderoli che sacrifici fa? Scusi? Calderoli, quali sono i sacrifici di Calderoli? Calderoli è stato il primo parlamentare a dire che i parlamentari, i deputati, devono contribuire col 5%, adesso il 5% può essere un'inezia, eccetera, però l'ha detto anche per i deputati quella frase. Sì, lì. Però quello che, Gianfranco, quello che dico io è che a me sembra è giusto, ma che lo facciano pure, che devolvano tutto il premio, che rinuncino, tanto per loro sono briciole. Non è questa la questione, mi sembra. Però un po' un cavallo di Troia, no? Utilizzare il mondiale per dichiarazioni politiche e demagogiche. È questo che io dico. Non sto contestando la sostanza, poi che decurtino, facciano quello che vogliono, non è questo il punto. Mi sembra fastidioso il fatto di politicizzare in questo modo, di usare come veicolo politico questa spedizione, no? Non trova? Non le dà fastidio questo? No, assolutamente non sono d'accordo, perché ripeto, in un momento in cui lo devono fare tutti i sacrifici, se c'è qualcuno che dice i giocatori che sono miliardari devono anche fare i loro sacrifici, bisogna solo applaudirlo e basta. Sì, chiunque esso sia, cioè, se questa dichiarazione l'avesse fatta anche un paracarro, sarebbe da lodare. Ho capito, va bene, questo è il discorso, ma secondo me non arriviamo poi a capirci fino in fondo, perché quello che dico io è un'altra cosa. Non sto contestando ma non vorrei fare una trasmissione politica, proprio per questo, no? È questo che io contesto, cioè il fatto che in questa ora siamo qui a parlare di dichiarazioni di Calderoli relative alla spedizione mondiale. Ripeto, non sto discutendo la sostanza di queste dichiarazioni, semplicemente non mi piace il contesto e il modo, dico soltanto questo, poi applaudiamo, fischiamo, facciamo quello che vogliamo, insomma, ripeto, non sto discutendo la sostanza, punto e basta. Tanto è che torno a parlare di pallone più che delle dichiarazioni di Calderoli. Nicola Roggero da Sky, buongiorno, ciao Nicola. Ciao, sono contento che ci sia una separazione tra me e Calderoli personalmente. Che ci sia insomma un la riga sia ben tracciata. Vorrei che fosse più netta, caro Nicola. No, ma insomma, il discorso è questo, non stiamo facendo tribuna elettorale, stiamo provando a parlare di mondiali di calcio, no? Anche se cercano di tirarci dentro in tutte le maniere da quell'inno nazionale storpiato forse da Marchisio, che se l'ha fatta, ha fatto una fesseria a queste dichiarazioni di Calderoli, che mi sembra una spremuta di demagogia sul calcio e su questa spedizione mondiale. Ma tanto dobbiamo vaccinarci, perché sarà così da qui alla fine, da qui all'11 luglio, sperando di arrivarci con la nostra nazionale. Piuttosto, come stanno le altre, Nicola? Perché sembra un mondiale che perde i pezzi, il mondiale dei reduci. Sì, esatto, non mi sembra che stiano molto bene, perché a ogni amichevole o comunque ogni giorno ne salta qualcuno. L'Inghilterra ha perso Rio Ferdinand ed è una perdita molto grave, perché oltre che uno dei migliori difensori al mondo, anche uno dei grandi leader che aveva la squadra di cappello. Non è un caso che quando è mancato Ferdinand quest'anno il Manchester United abbia fatto grandissima fatica. La Costa d'Avorio ha perso Drogba, che non è il suo capitano ma direi il suo totem in assoluto, e se la speranza era di vedere finalmente arrivare una squadra africana molto avanti nel torneo, questa squadra poteva essere la Costa d'Avorio, però senza Drogba adesso ho i miei dubbi che possa riuscirci. E è molto grave la perdita, sempre che perdita sia, perché insomma non è ancora chiara l'entità dell'infortunio di Robben per l'Olanda. Abbiamo visto quest'anno quanto abbia pagato Real Madrid l'assenza di Robben oltre che di Sneijder, e abbiamo visto come il Bayern Monaco, squadra mediocre in tanti elementi, però con Robben è riuscita a raggiungere una finale di Champions League che forse nemmeno i bavaresi sanno come hanno fatto. Sì, e poi ci sono anche tante altre stelle che comunque non stanno benissimo, no? Asciugate dalla stagione con mille acciacchi. Ieri ho letto un lungo elenco: gli adduttori di Rooney, la caviglia di Barry, il perone di Fabregas, il bicipite di Iniesta, insomma, ce ne sono un sacco, al di là di Drogba, che quell'infortunio traumatico, nulla ci si può fare, tiene a Costa d'Avorio col fiato sospeso, anche se sarei molto sorpreso di vedere Drogba in campo in questo mondiale. Sì, sì, ma anch'io, lui è vero che è un grande lottatore, uno che ha recuperato da infortuni non gravissimi, però insomma di una certa entità in termini più strette rispetto a quanto pensavano i medici, però anch'io suppongo che non ci sia, perlomeno non ci sia per le prime partite, non so se quanto la Costa d'Avorio riuscirà ad andare avanti senza Drogba. Sul resto è vero, del resto oramai le stagioni si compongono di una sessantina di partite. Io penso soltanto agli inglesi che oltre al campionato hanno la Coppa di Lega e il FA Cup, e sono tornei che non prendono minimamente sotto gamba, oltre che poi l'impegno almeno per le squadre maggiori nelle coppe europee, per cui si arriva abbastanza a pezzi. La stessa Italia, mi sembra che a giudicare da quello che si è visto contro il Messico, ha un De Rossi con la spia della benzina in perenzione, cosa normale per un centrocampista centrale. È abbastanza facile arrivare con lingua penzoloni. Ecco, in queste condizioni tu sei dell'idea, cioè condividi l'idea di portare giocatori infortunati al mondiale con queste problematiche? Mi riferisco all'Italia ma anche agli altri, insomma, perché Robben non è partito, forse partirà, non si sa. C'è il Brasile con Kaká che ha avuto problemi di pubalgia tutto l'anno, Julio César che questa sera non gioca in amichevole. Non è troppo rischioso? Sai, è anche vero che il mondiale è un torneo lungo, per cui il Brasile può per esempio ragionevolmente pensare di fare a meno di Kakà per i primi 10-15 giorni e ritrovarselo poi nella fase di eliminazione diretta. Chiaro, il rischio c'è nel momento in cui si portano 5-6 elementi in condizioni dubbie, nel momento in cui sono soltanto 1-2 per quanto importanti, penso che sia un rischio calcolato, anzi proprio perché è importante il rischio diventa calcolato, nel senso che il Brasile ha 22 elementi più Kakà, nel momento in cui trovasse anche Kakà guarito a posto, è chiaro che il rischio può tranquillamente pagare. Ripeto, dipende dall'entità dell'infortunio. Certo. Nel caso di Ferdinand non c'era nulla da fare, infatti Capello ha subito chiamato Dawson. Nel caso di Drogba credo che ci sia poco da fare, nel caso di Robben credo di Pirlo e di Kakà c'è la possibilità invece di recuperarli. Ripeto, non finisce la prima partita al mondiale, ce ne sono poi anche altre. Certamente, a patto di andare avanti come tutti ci speriamo in chiave azzurra. La Spagna come sta? L'hai vista di recente? Sì. Hai visto di recente la Spagna? Non l'ho vista, però io continuo a pensare che sia la formazione più forte, la formazione che ha più cambi. Se penso che a centrocampo uno tra Xabi Alonso, Fabregas e Iniesta sta fuori, ecco, l'idea della forza spaventosa della Spagna. Non parliamo poi dell'attacco, anche se anche qui c'è un dubbio, perché Torres non ha giocato tutto l'ultimo mese della stagione per un infortunio, quindi non so esattamente che condizioni sia. Forse il vago punto debole della Spagna, molto vago, è la difesa. Ecco, a mio parere la difesa non è esattamente all'altezza del centrocampo e dell'attacco, però insomma c'è un portiere come Casillas, c'è un leader come Puyol, c'è un giocatore esperto come Marchena. Sì, pochi anche punti lì sono messi abbastanza bene. Sono messi benino. Nick, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi facciamo altre due chiacchiere, anche andando a toccare due europee di cui si parla poco, non so se ha ragione o torto, me lo dirai tu, come Germania e una Francia che ha perso anche con la Cina in amichevole, incredibile. C'è Stefano che scrive: beh, ci fu Beckenbauer che giocò con un braccio al collo, credo 74, esatto 74. Stefano, parlate dell'Olanda, sarà la sorpresa secondo Aldo, un altro ascoltatore. Secondo Nicola Roggeri invece, Germania e Francia, cosa possono combinare questo mondiale? Non si parla della Germania, secondo me ha torto, perché per definizione in ogni mondiale la Germania è una variabile da tenere in considerazione. Ecco, sì, secondo me soprattutto per la considerazione che hai fatto, cioè è una formazione di una solidità spaventosa, ha una serie di risultati impressionanti, non soltanto i tre titoli, ma una valanga di finale, una presenza costante nella semifinale, nei quarti, insomma la Germania che buca i mondiali o anche solo gli europei è veramente raro. Non dobbiamo dimenticare che è la squadra che è arrivata in finale europeo 2008, in semifinale al mondiale del 2006, in finale al mondiale 2002, quindi ha una certa costanza di risultati, con una squadra a mio parere non fortissima. Ha perso Ballack, ma direi che per quanto ha fatto Ballack negli ultimi due anni non è detto credo che sia una perdita irrimediabile. Sì. È comunque una squadra che presenta un'ossatura, quella del Bayern Monaco, che comunque volenti o nolenti è arrivata in finale di Champions League, sia pure con dei passaggi anche fortunati. Io personalmente non la vedo tra le favorite, però hai detto bene, è sempre la Germania. Per definizione. Verso la Francia credo che abbia soprattutto una preoccupazione, quella di stare attenta a prenotare il prima possibile il viaggio di ritorno, perché potrebbe anche essere che dopo due partite è già tranquilla, nel senso contrario ovviamente della qualificazione. Può già prenotare i biglietti, insomma, per il ritorno e per le vacanze. No, io credo potrebbe essere davvero la Vatero del calcio francese questo mondiale, non degno addio a Domenech. Beh, visto che c'è stato Waterloo, rischia di fare la fine del connazionale Napoleone un paio di secoli più tardi, non in Belgio ma in Sudafrica. La Francia questo mondiale non avrebbe nemmeno dovuto esserci, perché, sì. Ma non soltanto per il gol di mano di Henry, quanto perché quello spareggio fu letteralmente dominato dall'Irlanda, certo. E non lo dico soltanto per simpatia e contiguità di territorio contro Pattoni e Tardelli, certo. La Francia è stata decisamente fortunata e credo fra l'altro che quell'episodio non abbia attirato molte simpatie neppure sulla Francia, per cui non sarà facile. E poi è una squadra che in troppi elementi è in parabola discendente, penso tutti ad Henry, ma potrei citare anche Gallas, sì. Sembra che i soli due elementi veramente in palla per la Francia sono Evra e Malouda, che hanno giocato due grosse stagioni sia con il Manchester United che con il Chelsea. Sì. Mi sono curioso di vedere finalmente nel calcio, una volta nella vita è riuscito a coronare il suo sogno di giocare al mondiale, visto che non ce l'aveva mai fatta. Grazie Nicola, a presto. Grazie a voi, un abbraccio agli ascoltatori. Sempre un piacere, Nicola Roggero. Massimo da Cassino e poi viriamo sul Mugello. Massimo. Sera, dottor Genta. Salve. Senta, innanzitutto premetto che dissento con quello che ha detto il radioascoltatore prima in merito all'onorevole Calderoli. Comunque, visto che si parla di sport, parliamo di altro. Senta, cosa ne pensa dell'Italia 2 che si è vista ieri sera rispetto all'Italia vista col Messico? Ma dunque, in queste due partite, Massimo, io faccio soprattutto un distinguo sul piano fisico. Mi interessa poco il risultato, mi interessano poco le sensazioni tecniche, un po' più quelle tattiche. L'Italia vista con il Messico non poteva essere quella vera. Non poteva essere quella vera perché, insomma, era imbarazzante, no? I messicani andavano al doppio, sembravano il Brasile di Pelé, però formato da 11 Usain Bolt. Erano sempre in anticipo di un quarto d'ora su ogni pallone, dunque... Era un dato fisico quello preoccupante che era emerso dalla finale, dalla partita contro il Messico. Ieri sera l'avversario, il competitor era differente, anche sul piano proprio della corsa, della rapidità. ho visto un'Italia in leggero progresso, ma d'altra parte conforta anche parlare con, ieri abbiamo parlato con il dottor Volpi, conforta anche parlare con preparatori, dicono che per il tipo di preparazione che ha impostato l'Italia, questo è il momento forse, cioè, la partita con il Messico è caduta probabilmente nel momento peggiore in cui le gambe erano più dure, rigide e imballate. Certo è che, insomma, si sottolineava anche ora con Nicola Roggero, partiamo con diversi giocatori, ma questo vale per tutti, con la spia rossa della riserva perennemente accesa. Dunque la mia preoccupazione in questo momento è esclusivamente fisica. Mi auguro che i calcoli siano stati fatti correttamente, questo sì. Massimo, la ringrazio. Saluto invece Mario Poltronieri, buongiorno Mario. Buongiorno, ciao Carlo. Oggi tutti come Valentino Rossi, cioè Gran Premio alla TV. Sì, beh, è stata una bozza notevole questa. Francamente Valentino ormai ci aveva abituato a delle semplici scivolate, e queste cadute in verticale, che sono sempre pericolosissime, gli sono costate poi moltissimo. Non voglio fare un paragone perché è assolutamente sbagliato, però mi ricorda la situazione di quando morì Senna. Qui fortunatamente non c'è il morto, ma c'è il recupero molto lento. Quando tutti mi dissero: ah, ma noi non guarderemo più le gare. Ecco, la mia sensazione è che le prossime gare del motociclismo, se non si anima un po' il confronto Lorenzo, Pedrosa e così via, perderà un po' di pubblico. Sì. Gli appassionati della moto rimarranno, ma quelli che erano legati al discorso di Valentino aspetteranno di vedere quando sarà il suo ritorno. Certo. Il suo ritorno, secondo diciamo la filosofia fideistica del dottor Costa, sarà non di 5-6 mesi, ma magari di 2. Comunque, anche con il ritorno di 2 mesi, Valentino ha perso la possibilità di conquistare il mondiale, che è molto aperto tra Lorenzo e Pedrosa per adesso. Questo rallentamento, questo recupero, sia pure tardivo, aprirà poi le discussioni del mercato. Certo. Perché certo, naturalmente c'è il problema: il Valentino che torna è esattamente lo stesso? Io sono convinto di sì. Ma Mario, ma tu ne hai conosciuti tanti di fuori classe del volante o di fuori classe della moto che hanno avuto incidenti anche più gravi di questo? Insomma, io non mi sento di dubitarne. Certo, però nella battuta di papà Graziano ieri ha insistito su quello che è il suo desiderio, e cioè che il figlio passi in Formula 1. Sì. Non credo che Valentino oggi lo voglia fare, anche perché vorrà dimostrare che è sempre quello di prima, quindi vuole comunque fare un altro anno di motociclismo. Con chi lo farà vedremo come va questo mercato. Adesso io non ti voglio portare via troppo tempo, perché è una cosa abbastanza complicata, perché ciascuno vorrebbe il pilota dell'altro, però non vorrebbe cedere il suo. Io credo che sarà un campionato comunque interessante, perché tra Lorenzo e Pedrosa, il Lorenzo che arriva secondo oggi suscita qualche perplessità. I casi sono due: o la Honda si è messa ad andare molto forte, o la Yamaha un pochettino più adagio, o lui ha fatto diciamo una gara conservativa. Non so se questo gli può convenire, perché è vero che adesso noi diciamo che Lorenzo ormai è arrivato e così via, ma se dovesse tornare come Stoner a ricordarsi come si cade, sì, rischia di dare strada a Pedrosa. Eh sì, anche perché il vantaggio, insomma, adesso Lorenzo è il grande favorito, però non è un vantaggio che consente ancora di fare conti. 90 punti per Lorenzo contro i 65 di Pedrosa, quindi non è un vantaggio che ti permette in questa fase del mondiale di fare dei calcoli. Poi dovrà anche convivere con un ruolo di favorito e relative pressioni che a questo punto gli tocca di diritto. Grazie Massimo, grazie Mario. Ciao. Alla prossima. Buonasera. Grazie a Mario Poltronieri. Dunque, dobbiamo chiudere, purtroppo, ma chiudiamo. Adesso largo agli speciali che seguiranno, a cominciare da quello di Trento in materia economica con Simone Spezia. Dopo il GR noi torniamo invece più tardi dalle 20:30 alle 21 per il solito punto sul basket. A dopo.